11.01 sulle libere frequenze di Radio Blackout, prosegue la mattinata informativa, comincia una nuova puntata di Parole Ribelli, la trasmissione del collettivo universitario autonomo di Torino. Un buongiorno a tutti e a tutte voi che siete in ascolto, da Francesca. E da Eddy. Ricordiamo i contatti 011 24 95 669 per chiamarci e 346 66 73 263 per scriverci o aggiornarci su quello che succede in città e dintorni. Adesso andiamo avanti con un po' di musica e poi presentiamo la puntata di questa mattina. Sì, abbiamo qualche problema con i volumi della musica, non riusciamo a capire se sta uscendo in maniera udibile, quindi magari per chi è in ascolto fateci sapere come arriva dalle vostre parti. Come fosse la mia prima rima, come non mi avessi mai sentito prima, come se sputassi nitroglicerina, boh boh, come mi si fosse rotto il caps lock. Scrivo solo in grande, penso solo in grande, Donald Trump, come se quel che scrivo andassi inciso sull'acciaio, come un recidivo, come un visionario, come fossi refrattario alla merda che mi butti, come se a concerti non mi avessi già fottuti tutti. Fa come fossi a casa tua, ma l'hip hop è casa mia, la sola regola da rispettare, stay real. Devi imparare a comportarti come si conviene, quanto pare tardi se fai solo come ti conviene. Non è come viene, viene, è come scienza, come un'equazione che rivela la tua vera essenza, come un pezzo di me stesso messo dentro ogni quartina, che ora chiudo come fosse la mia ultima rima. Mental mind, come, come, pula, dove, come, tocca, quando, quando, vai. Questo è il mio mondo, niente mappa doppia H. Anche nel posto più recondito del mappa mondo riconoscono di che si tratta. Dalla Kamchatka fino all'Alaska, stessa casacca, siamo fatti della stessa pasta. Noi rime dal cuore, dal polmone, mica dalla tasca. Rap indipendente come la popolazione basca. Da nord a sud col mood che infossato, dai luffi sono paia, poi dormiamo da chi è organizzato. Non so, so dove il sapone per la tua cosmesi, dove sapone subito pesi, dove la playlist per mesi, dove da tutte le parti arti, e non chiamarle pop se c'è la cassa in quattro quarti. È un'energia che rende speciali, oltre la geografia, la pelle, le estrazioni sociali. Dove? 1520 se giù che vedi una via, dove tutto ha preso il via, ti aspetta a casa mia. Mr. Man, come, come, pula, dove, dove, stocca, quando, quando, quando, yeah, ogni minuto basta, puoi lasciarmi andare via. Guardo sempre l'orologio mentre chiamo un taxi giallo per la bucceria. Il giorno che ho iniziato lo ricordo come casa mia. Quando me ne andrò questa musica non andrà via. La strada del guerriere come fede nella sua regina e muore, per sostenere il peso delle sue parole. Questo è il nostro tempo, microfoni e pistole. Anche senza un ghetto blaster scriverò canzoni nuove. Quando mi guardo davanti vedo il fumo, mi scarico, ma vedo ancora chiaro. Questo è il tempo e noi lo dividiamo. E quando un giorno nel futuro ci ritroviamo, questa musica sarà divisa in barre di titano. Sulla testa guardo il panorama, il mare che unisce la strada, sempre la stessa ricoperta di sabbia africana. C'è lo scirocco a ricordarmi che dovunque vada, quando c'è musica è quella la mia casa. Mr. Man, come, come, pula, dove, dove, stocca, quando, quando, vai. Perché ci prende bene così, trenzi, più sli, rock, B, albi, tra, it, da, street, tu dici I'm loving it. Io dico vieni qui, perché senza le teste vere siamo inutili, perché se tu ci dai calore noi ti diamo parole, perché senza il motore la macchina non si muove, molla quella tastiera, vieni tra pubblico, alza il culo dalla sedia, se non son piaghe da decubito, perché è così che va, perché così deve andare, meno crisi, più sorrisi, più mani so supportare, possono toglierci la luce, il palco è strumento. Mentale, fanculo faccio beatbox, oggi può continuare, perché finché c'è qualcuno che ci crede, ci sarà un check, uno step delle nuove leve, il rap è pane quotidiano, noi abbiamo fame, non c'ho perché, così è, amen. Mr. Man, come, come, pula, dove, dove, stocca, quando, quando, vai, perché, perché. E allora 11.06 sulle libere frequenze di Radio Blackout, 105.250, grazie a tutti e tutte coloro che hanno risposto al 346-66-73-263 per dirci che i volumi vanno bene, poi rispetto alla selection, quella è questione di gusti. Parole ribelli è da sempre schierata con la doppia H. E niente, quindi sì, mi unisco ai ringraziamenti e niente, andiamo a presentarvi brevemente quella che sarà la puntata di oggi. Inizieremo come sempre con un po' di rassegna stampa, andando a commentare alcune notizie degli ultimi giorni e andando poi anche a presentare qualche appuntamento invece di quelli a venire. E proprio negli appuntamenti a venire, domani si terrà a Palazzo Nuovo il dibattito di cui avevamo precedentemente annunciato, chi è Charlie? E con Karim Metref, con cui abbiamo provato a collegarci nella scorsa puntata, purtroppo senza risultato, ma che invece è prontissimo per intervenire in questa. E invece per quanto riguarda il piano internazionale, torneremo a parlare di Messico, della vicenda dei 43 studenti normalistas scomparsi da fine settembre. Ieri era stata indetta la 7ª giornata di mobilitazione globale per Ayotzinapa, ci sono state iniziative, cortei ovviamente non solo in Messico ma anche nel resto del mondo, quindi andremo a dare conto un po' di quello che è accaduto, insomma anche a dare qualche aggiornamento su questa vicenda che abbiamo sempre seguito con continuità in questi mesi. Poi faremo ancora due parole su Cremona dopo martedì scorso in cui ci accingevamo ad andare proprio a Cremona per il corteo nazionale Antifa, su cui credo tutti e tutte siano rimaste sintonizzate. E, la polemica, diciamo, del post non è solo quella che riguarda i tifosi delle vetrine e i protettori del quieto vivere, ma c'è una polemica intorno alla possibilità di far suonare i 99 posse perché istigatori della violenza consumatasi sabato. Quindi compagni e le compagne di Radio Onda d'Urto hanno già sentito i 99 e rigiriamo questo contributo per problematizzare ulteriormente. Sì, andremo anche a dare qualche nota di colore sulla gestione mediatica poi del giorno dopo con insomma i soliti sciacalli che sono arrivati addirittura ad inventarsi fantomatiche polemiche online, insomma, per soffiare un po' sul fuoco del giorno dopo. Questo insomma più o meno quanto, l'ordine come sempre passibile di stravolgimenti, ma cercheremo comunque di dar spazio a tutto quanto. Ricorderemo poi anche insomma gli appuntamenti di oggi dopo la sentenza del processo Notav che è prevista per le 14:30. La giornata sarà lunga, le frequenze di Blackout saranno a disposizione fino a sera per insomma tenere tutti e tutte aggiornati. Nel frattempo al 346-667-3263 arriva una segnalazione che ci dice che ci sono i controllori sulla metro all'uscita 18 dicembre. Posso confermare perché li ho trovati schierati tipo cordone all'uscita anche io poco fa, quindi insomma per chi è nei paraggi cisti. E intanto ringraziamo chi ci ascolta dalla Valsusa a Roma. Xiaomi, Giuseppe sul mic, J-Rock sul beat, raccontami di lei, chi? Non si volta e scappa con la cassa nella ressa, lei si spacca sotto cassa quando il vento la carezza, pugni in tasca, a volte pugni in faccia di risposta, chi chiedeva pace invece di sommossa, figa prego mucchio da sta messa, né salvando mal comando, ballo un turbulento, un mambo letto, fa spaventa, ammetto che mi tenta se è l'istinto che m'alletta, mi diletto in cameretta e lei, è nuda con in mano una doppietta, non invecchia, è sempre giovane e perfetta, è come la mia musa, musica e salvezza, leggi le tue gesta, cerca complice e saggezza, e non avendo membra sembra che la guardia non la resta, ancora berga nella testa di chi resta allerta, la giustizia sua è pendente e dice, pezza. Sul sentiero, sulla destra un cimitero, alle spalle un picchio scioli, di sale un fumo nero, tu straniero, mi dice Yuko, t'han pentito mai, la mia del samurai, porta rogne e tanti guai. la katana tra le dita. Scrivo drammi in ideogrammi, dammi fogli dei tuoi testi in origami sul tatami. Fammi quattro volte fuori legge come schegge di cristallo. Il cuore a strisce rosse come serpente corallo. E non ti scordare l'insegnamento del sensei. Se sei pronta alla battaglia è sempre meglio che te dai. Ma de che? Attacca fila a che? Lancia bocce di sake, botte su me karate. Su karate accelere, convergere sulla palude dell'anonimato. Combattere io Mozzukuni e che glielo stato. Sano il mio nemico se gli tolgo il retroterra. Chiamami Sun Tzu, scrivo l'arte della guerra. Campinghe Shaolin, giù serrina ad elettrica evergreen. Il collo delle twins come favole dei Grimm. Ma non posso dare sapparese in Vince. Sporchi nello specchio come Vince. Qui zitti dal cesto, ginocchiata al petto, famo clean. Cin cin, mix di cin. Rimando il tuo Natale come il Grinch. Stringo cacca al collo ai direttori del TG. Giri con la chip o GMC delle team. Free con le bitch, poi la pelliccia. Zero silk e Vince sulla tua ciccia. Dammi carta e beat, la mia miccia. Un mix su bodybuilding. Io alzo polemiche col click. In the building, sweet dreams, sto solo testa a colla tipo stalking. Solchi sopra, molti noschi, occhi dentro i boschi, la se spine mostri come Stephen King. Prendo fiato e sputo con le pugili sul ring. Allora 11:14, bentornati su Parole Ribelli, iniziamo a entrare un po' nel vivo della puntata. Come dicevamo poco fa, iniziamo con un po' di rassegna stampa, lo facciamo a partire dal sito roars.it, che insomma segue sempre un po' le vicende e le sfighe dell'università. Un articolo del 25 gennaio, quindi di domenica, titola IIT, gestore unico della proprietà intellettuale dell'università, a sua insaputa. Praticamente l'articolo segnala che Tra le misure urgenti per il settore bancario e per gli investimenti che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri molto recentemente, è stato infilato così un po' a sorpresa un comma che assegna all'Istituto Italiano di Tecnologia, appunto l'IIT, che è un istituto privato, la commercializzazione dei prodotti tecnologici e dei brevetti di tutte le università e di tutti gli enti di ricerca italiani. Ovviamente non appena qualcuno si è accorto insomma di questa cosa, di questo comma che compariva appunto un po' a sorpresa in un decreto che in realtà riguarda ben altro, si è scatenato un po' un putiferio, ma la cosa insomma curiosa è che lo stesso IIT ha pubblicato un comunicato in cui si univa all'unisono con il mondo della ricerca esprimendo le proprie perplessità su questa norma, quindi sembrerebbe quasi che il Consiglio dei Ministri abbia infilato questa roba senza neanche consultare le parti in causa, poi insomma come sia andata effettivamente è da vedere, però quello che sembra chiaro è che ci sia un tentativo di commissariare il trasferimento tecnologico della ricerca nazionale, appunto quella che viene fatta nelle università quotidianamente, affidandola a questo ente di ricerca privato allora insaputa. Scrive Roars: chi sarà stato allora? Crediamo di sapere già come andrà a finire. Niente, quindi ovviamente a questo è seguita poi la protesta appunto di ricercatori e non solo, c'è chi titola ci stanno scippando i brevetti, chi parla invece di giallo della privatizzazione dei brevetti, insomma non è chiaro appunto come sia nata questa vicenda, quello che è chiaro insomma un po' la direzione comunque nella quale va, cioè quella di proseguire sulla privatizzazione del mondo della formazione e anche di messa a valore di tutto quello che viene prodotto quotidianamente nelle università. E, insomma, staremo a vedere se arriverà qualche chiarimento da parte del governo che insomma in continuità con gli altri prosegue su questa linea di infilare così ogni tanto qualche sorpresa in mezzo a norme invece più ampie, e vedremo se appunto ci sarà un chiarimento e chi si assumerà la responsabilità di questa cosa, comunque se verrà confermata o meno. E questo appunto era così un articolo che volevamo segnalare. Adesso vi lasciamo ancora un pezzo musicale, poi passiamo invece agli appuntamenti prossimi per quanto riguarda la nostra città. Sempre rumore di giro di scatto, Roma di notte delirio non fratto, tutti quei giorni che nulla di fatto, vede ricatto in fuori compatto, un tratto un soffio d'eolo, scopre lo scarlatto, come un graffio che è lo spazio per un impatto scacco matto, passo per fatto di gatto, quattro dietro, un 4x4 aspetto l'attimo, vanzi col battito all'istante adatto, il nemico ovunque dunque cercalo, se il pensiero cacci studi elettrico, sovverti nel tuo lessico, mille miscele di rabbia d'amore, continua cattiva passione, ma questa parola che l'azione non porterà il mio nome dove suona un piano forte a coda sulla barricata là. Folle esercitata, so che avanzerà per miglia, ogni rima fatta straccia intorno al collo di bottiglia, traccio un'orbita di fuoco nella notte per miglia, figlia della collera, al fianco esattamente di chi so che poi non mollerà e confonderà l'oscurità. Ultima colonna in alto come quadro sciato, orso del fuoco pari a stato, c'è il padre e di farmo, tu in piazza fai, noi in piazza farai, perché la dignità qua non me la un salario. Ultima colonna in alto come quadro sciato, orso del fuoco quando passa il tuo suono non passi più, non pare, non serve che metti bandiera blu, mi tuffo uguale, appena ti alzi dalla sedia, avvicinati al muro, pare che ti torna in culo la vita che mi hai fatto mancare, stare non tanto dove non puoi stare, fatti i cazzi tuoi e non dirmi che non ti vuoi, allora eccomi, sempre in seno, sempre contro questo mondo infetto, pure fermo nel letto, mi prendo da tonno, 5 malattie in una tiro alla luna che non si cura di chi ulula e accumula fortuna, destinazione inferno qui, generazione Chernobyl, abbiate dubbi tutti se restati nervi, frutti senza fermi, quando vai? E guarda sempre il cielo quando vai, che è pieno di iPhone come le Nike, qua dai fatti ti senti gofro, da grande Randy Crawford, ti fly, non metti in vita mai quando non senti il polso, ultima colonna in alto come quando sciato, show del fuoco vai a scatto, show dal fai che stai di Bible, tu vuoi senza fare noi, mi alzo un bagaglio perché la dignità ultima colonna in alto come quadro sciato, al suo del fuoco, vai a scatto, al shot, al bar, per tutti i barboni, tu in piazza affari, noi in piazza affari, ottati spirrimati da barri col fiorario. Ultima colonna, fila al fianco di insorge, norge di rivolte, forge l'altra guancia, un bacio della morte, morte, chissà serrature, chiavi, stelle, spade, scheda, dure, barre, magneti che tornelli, questa è carne, non mi scordo chi sta dentro il cartellismo, come sottotitoli ne porno, questo non è rap, è un morbo, colpo secchio all'occhio del gigante, è un secchio di sangue, siamo bravi, qui che se ne vanno in thunder, fai con la tua fast life, dalle fai giù celestri, con le macchie nere come nelle acque in Messico, fuori dal dibattito, da reddito sull'astico, per fine il traffico, ne sta sul cazzo, passo dalle nubi spesse dei CS, contro la PS, Bild, SIS, Gilde, Rich, Lager, Messi, ma colonna in alto come quattro shuttle, show del fuoco, vai a scatto, shot al bar, street, barbol, tu in piazza fai, noi in piazza farai, perché la dignità qua non me la dà un salario. Ultima colonna in alto come quattro shuttle, show del fuoco, vai a scatto, shot al bar, street, barbol, tu in piazza fai, noi in piazza farai, ottati, spirri, noti da fare col fioraio. Io busso e m'insinuo come il serpente, vado a fare la vipera in seno. 11:21 sui 105.250. Andiamo avanti con un po' di rassegna stampa e annunciamo che ancora per l'ennesima volta Renzi annuncia il suo arrivo a Torino. L'ennesima volta, perché abbiamo visto anche, è diventato anche un trend della rete, l'hashtag Renzi scappa, per quante volte ha annunciato che sarebbe andato in un posto e poi senza poi farlo. Ma qual è effettivamente l'occasione che questa volta rende possibile l'ennesimo annuncio? L'inaugurazione dell'anno accademico, precisamente dell'anno accademico del Politecnico, un appuntamento come tutte le inaugurazioni, un po' tutte queste celebrazioni, che si riduce a una sfilata e che è sempre stata una passerella privilegiata per la politica del momento. Ricordiamo che venne Profumo, che è venuta la Fornero e diciamo chi più ne ha più ne metta. Le inaugurazioni del Politecnico sono sempre state appetitose, in quanto il Politecnico è comunque da anni ormai un'avanguardia come laboratorio di privatizzazione della formazione, perché il livello diciamo di finanziamento che investe tutta l'università, al Politecnico ha un avanzamento abbastanza considerevole. Pensiamo solo al fatto che la convenzione tra la Fiat e il Politecnico fa sì che i progetti e gli studenti siano liberamente espropriabili da parte dell'azienda, con ovviamente il suo riconoscimento da parte di coloro che li hanno forniti, ma anzi l'imposizione, come al solito, a dire grazie per l'occasione che viene data. E in più, per esempio, una gestione dei servizi che fa sì che poi le carenze, i costi dell'università vadano tutti a livellarsi verso il basso. È una gestione, diciamo, è una gestione mezza, in maniera, cioè esplicitamente condivisa con dei privati. Appunto, venne già Profumo a parlare di quanto era importante mantenere, prendere il Politecnico come esempio, perché per tutti gli altri atenei, di come fosse importante riconoscere la funzionalità di questi cambiamenti. Bene, la funzionalità di questi cambiamenti poi sia nell'immediato ma ora nel lungo periodo la vediamo in maniera sempre più esplicita. È la funzionalità di una formazione che non ha assolutamente nessuna velleità di stimolare spirito critico, non è per quello che esiste, bensì è una crescita lineare di CFU che poi di fatto fanno sì che le conoscenze che girano dentro a quest'ateneo altro non siano che delle piccole scatole di nozioni che si possono tranquillamente reinvestire sull'attuale mercato del lavoro, con più o meno successo a seconda di quanto te lo sei meritato, perché appunto ricordiamo anche che questa logica è abbastanza spietata in questo ateneo, perché appunto proprio per tutta questa retorica dell'essere un'università di serie A, poi di fatto qualunque disfunzione di questa università è imputata allo studente singolo, soprattutto in sede di confronto con il professore. Chi frequenta l'università, ma anche chi l'ha frequentata, conosce perfettamente qual è la disparità di rapporto tra un professore e uno studente. presente e quanto è forte effettivamente la dinamica di potere di cui vengono investiti i professori a scapito di chi spesso deve ascoltarli senza poterli mettere in discussione come se non avesse un cervello. A questo proposito, i collettivi del Politecnico, il Terpolis, il Colpo e i sindacati presenti, i sindacati di base presenti tra i lavoratori di quelle che sono delle rigorosamente servizi esternalizzati, quindi CUB del Politecnico, FLC, USB, CGL, USB, firmano tutti insieme questo appello in cui, diciamo, chiamato Renzi non ci scappi, appunto in riferimento un po' alle mancate presenze di cui parlavamo prima, e al sito alterpolistorino.wordpress.com, come anche sul sito del Colpo e su Facebook. Nell'evento si può trovare questo appello: Renzi, l'università non ti vuole, appello per la costruzione di una mobilitazione il 18 febbraio. Quindi appunto i soggetti presenti nel Politecnico dicono ovviamente questa non è una data che riguarda solo il Politecnico, la responsabilità di politiche che altro non fanno che impoverirci, scaricare verso il basso i costi del lavoro, i costi del welfare e tutto, e smantellano continuamente quelle che sono poi le prospettive per i giovani, ma appunto mortificano anche i meno giovani, sono tutte imputabili alla persona di Renzi, ovviamente non da solo, ma ha scelto lui di metterci la faccia, e allora noi andremo a dirgli cosa pensiamo di queste politiche ancora una volta, andremo a dire che non ci interessa che sia lui o qualcun altro, il risultato per noi è sempre lo stesso, non ci interessano le promesse che vengono fatte, la nostra quotidianità di fatto non è cambiata di nulla, anzi abbiamo visto che in questi la nuova legge di stabilità, la buona scuola, il Job Act, lo sblocca Italia, insomma il panorama di ristrutturazione renziana è abbastanza agghiacciante, è quindi importante da parte nostra sì interrogare su quelle che sono i nuovi, diciamo, quelle nuove modalità anche contrattuali, piuttosto che, ecco, non so voi, ma a me per esempio a gennaio mi hanno abbassato lo stipendio di 1,50 euro, cioè non è che piavo 10 euro l'ora già, devi 1,50 euro, non è che fa bene. Quindi tutto questo per dire cosa? Che ci vediamo il 3 febbraio, il 3 febbraio, sì scusate pensavo il 2, il 3 febbraio al Politecnico per organizzare una mobilitazione che ricordi a Renzi che può fare il rottamatore quanto vuole, ma la solfa che ci propone è sempre la stessa. E soprattutto dopo innumerevoli pacchi che ha tirato negli ultimi mesi di cose da dirgli, penso che tutti ne abbiamo accumulate un bel po', quindi fatevi una bella lista che il 18 febbraio andiamo a chiedergli conto di tutto quanto. E allora adesso noi facciamo una pausa, e insomma se vi siete segnati gli appuntamenti in agenda vi lasciamo a un po' di musica e poi torniamo in onda. Cresce la P2, il muro di Berlino, e cosa resta? trap. Sentivo l'onda rossa, forse conoscevo il rap. Studiavo Giuseppe Mazzini e la ciocca in Italia, mentre Berlusconi costruiva la fabbrica. Le concessioni alle reti private, Palazzo Donatello 26, Milano 2 Ferrari. Era il coro di penitenza, lui centrava le reti digitali. Apporca la sua lenza, intanto nel mondo s'univa a Berlino. La bandiera rossa mai nata sul Cremlino. Tirana, Sarajevo, fratelli in cammino, abbandonati a un destino. Da clandestino i primi profughi in Italia, i primi videogame, i primi piani di guerra. Luce Saddam Hussein, nessun Iraq, piovono le bombe, Italia sì. La prima guerra è diretta TV e poi giù. Nei per sempre, ragazze, more e pincio, c'hai tuna. Sicilia, andava a tentature. Regna il silenzio del paese che va a rotoli. Parla Mario Chiesa e scoppia Tangentopoli. Nacque il primo partito senza ideologia. Si chiama mafia, si legge democrazia. Ignano cavaliere, soltace lo spaniere. Le camicie verdi, le camicie nere. Le dame, e noi vedoni del suo scacchi. È un gioco perfetto come il Milan di San. E anoressici, bulimici, depressi cronici e tossici in mano. Look at the negative side, pessimistic, since I was a kid, don't exist in the midst. that led me to bliss. Trying to be higher than the clouds, lower than the sky. With the help of these drugs, one day I'm gonna fly. So my eyes stay buggy and my eyes stay sparky. Homie, don't trip on me, cause you know I make money. They say rap, you're an example. Watch what you're doing. I know you think I'm perfect, but I'm only human. They say rap, you're an example. Watch what you're doing. I know you think I'm famous, but I'm only human. They say rap, you're an example. Watch what you're doing. I know you think I'm perfect, but I'm only human. God take me, baby, please don't wanna be up in the clouds. Cause I love being high, but the part I can't stand is when I'm coming down. So, God take me, baby, please don't wanna be up in the clouds. Cause I love being high, but the part I can't stand is when I'm coming down. E 40 sui 105.250 e allora siete all'ascolto di Parole Ribelli come ogni martedì mattina che vi terrà compagnia fino alle 12.45 e come annunciato in apertura di puntata siamo in diretta con Karim Metref. Karim, ci senti? Buongiorno a tutti. Buongiorno Karim, finalmente questa agognata diretta riusciamo a farla. Sì, finalmente. Allora, bene, noi nella scorsa puntata un po' appunto abbiamo comunque fatto un breve commento di qualche tuo scritto. Diciamo, per chi non c'era, per chi non, e per chi non ci potrà essere domani a Palazzo Nuovo, oggi appunto siamo qui ai microfoni di Parole Ribelli un po' con una delle voci che a seguito dell'attentato di Parigi ha tentato di complessificare un pochino lo scenario che invece sembrava completamente piatto e uniforme della solidarietà del Gesù Charlie. Allora ecco Karim, tu diciamo hai lasciato poco spazio all'immaginazione del perché dissociarsi, del perché non unirsi a questa anemia, a questo coro uniforme. Quindi a questo punto io direi di lascio la parola a te, dai anche qualche elemento agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Blackout di qual è un po' lo, diciamo, di qual è la complessità dello scenario invece secondo te. Sì, allora la complessità dello scenario al di là della naturale normale condanna dell'atto che è stato compiuto nella redazione di Charlie Hebdo, perché alla fine sono una decina, 12 persone che non impugnavano armi, che sono state freddate così insomma nel modo che conosciamo tutti quanti, quindi questo non è diciamo il non dissociarmi, non è un dire che questa gente se l'è cercata. Io non riconosco a nessuno il diritto di fucilare qualcuno per un motivo o per l'altro, ammesso che comunque questo per dire che il mio non dissociarmi non è una giustificazione di quanto è stato fatto. Però poi sicuramente parleremo anche un'altra delle cose portate all'attenzione non solo da te ma un po' da appunto quelle voci che abbiamo noi definito fuori dal coro, è anche l'indicibilità di un dissenso e di una posizione alternativa rispetto al puro Gesù Charlie, perché abbiamo visto che chiunque, tu stesso appunto, abbia voluto prendere parola in maniera un po' più approfondita, tentando di appunto increspare quella superficie piana di solidarietà uguale per tutti e da parte di tutti, comunque la prima cosa da fare è sempre dover condannare l'atto, come se non fosse chiaro che prendere parola non vuol dire certo schierarsi al fianco di chi va in giro armato ad ammazzare gente, cioè a uccidere persone disarmate, no? Esatto. E ancora diciamo che in Italia ancora un po' di spazio a un pensiero un po' diverso c'è ancora, e di fatto io mi aspettavo così che la mia lettera, cioè che avrebbe scandalizzato l'opinione pubblica eccetera, invece ho ricevuto una marea di messaggi di approvazione e di sostegno, e devo dire che ho ricevuto anche molti inviti che ho respinto ovviamente a andare a parlare sui talk show televisivi che io considero luoghi altamente nocivi alla comprensione delle cose complesse, e quindi per dire che comunque un po' di spazio c'è stato in Italia o comunque non è completamente chiuso. In Francia invece chi ha cercato di parlare, di cercare di ragionare un poco è stato fucilato in pubblico, insomma ci sono state delle distruzione dell'immagine delle persone, addirittura c'è stato anche l'arresto di un comico che ha cercato un po' di ragionare intorno a questa questione, e quindi sì, c'è questo circo mediatico intorno alla falsa emozione, falso sgomento, così tutto di facciata, porta a questo. Dall'11 settembre la lezione è sempre la stessa: quando si creano questi questi spettacoli, la fine è chiusura dello spazio di libertà e militarizzazione del territorio sia dentro che fuori, e quindi probabilmente questa storia ci porterà anche all'annuncio di un nuovo sbarco, di un nuovo creazione di nuove basi militari della Francia e della NATO, non lo so dove, probabilmente in Africa o in Medio Oriente, ma comunque questa occasione non sarà sprecata così. La situazione che viviamo è questa, nel senso che c'è i cori si alzano e sparano tutti nella stessa direzione, e chi non c'è spazio a nessuna riflessione seria, non c'è spazio a nessuna analisi della situazione. Un fatto semplice, per esempio, l'altro ieri è morto il re dell'Arabia Saudita. Il re dell'Arabia Saudita è sempre stato il primo sponsor dell'integralismo islamista, anche quello armato, ha speso miliardi di dollari per creare gruppi armati dalla Cecenia fino alla Bosnia, fino all'Africa, fino all'Ingushia e sui confini con la Cina, eccetera, e quest'uomo, tutti quelli che erano a manifestare, a dire Je suis Charlie, hanno presentato le condoglianze, sono andati di persona a assistere ai funerali, hanno scritto che è morta una brava persona, eccetera. E questo è il doppio linguaggio, il doppio gioco che si sta facendo sulla nostra pelle. Questo sembra un po' il cordone di Parigi, no? Confini che non sono quelli effettivi di una presunta civiltà europea, ma che poi sono confini economici, sono rapporti di forza e di potere sostanzialmente. Esatto. Esatto, c'è un clan di quelli che hanno i miliardi che non ha né razza né confine né nazionalità. Che abbiamo comprendere subito, che poi difende anche a livello diciamo mediatico e di autorappresentazione la propria immagine, perché appunto hanno preso aerei, sono andati, hanno fatto in modo che fosse chiaro a tutti, perché quelle sono foto che hanno fatto il giro del mondo, quelle che si sono spese sono dichiarazioni fatte su piattaforme globali, quindi diciamo che da che parte stiano l'hanno detto in tutti i modi, e appunto non ultimo l'episodio che ricordavi tu ora, le condoglianze. Esatto, cioè sono talmente sicuri del controllo che hanno sull'opinione pubblica tramite insomma tutti i mezzi, i media che hanno, le tecniche di manipolazione ormai anche della rete, nel senso che ormai sono degli esperti che occupano anche quegli spazi che sono stati un po' alternativi per un po' di tempo, e quindi i servizi di propaganda di questi stati, di queste potenze, riescono anche a comunicare usando dei pseudo filmati su YouTube, eccetera. E sono talmente sicuri del loro controllo sull'opinione pubblica che non si prendono nemmeno la briga di curare un po' i dettagli. Se tu vai a vedere quella cordone, quella finta manifestazione che hanno fatto a Parigi, e analizzare chi c'era in primo piano. C'era in primo piano il presidente Hollande che dava il braccio a Ali Bongo. Ali Bongo è il dittatore, figlio del dittatore del Gabon, che da due generazioni stanno spremendo questo paese ricchissimo, che finanzia tutta la sporcizia della politica francese da dalla fine della seconda guerra mondiale fino a oggi, e dove la gente non riesce a mangiare a sufficienza, non riesce ad avere scuole, non riesce ad avere una sanità decente. Questo uomo era in prima fila abbracciato a Hollande. Questo uomo, appena rientrato in Gabon, prima cosa che ha fatto, ha messo in carcere uno dell'opposizione che aveva scritto qualcosa su un giornale. E questa la libertà di espressione che il signor Hollande e tutto il circo mediatico intorno a Je suis Charlie ci propone, cioè la libertà di espressione solo dei potenti. Beh, sicuramente poi anche da questo punto di vista, anche rispetto alla solidarietà, è interessante vedere appunto il messaggio è univoco ed è Je suis Charlie, però è diciamo interessato ovviamente di parte tanto quanto le politiche che arbitrariamente queste persone mettono in atto. Dall'altra parte c'è anche una sembrerebbe una ridefinizione, proprio un terreno per depotenziare anche quelle che sono le alleanze sociali che potrebbero poi mettere in discussione queste catene di potere, perché se solidarietà nel 2015 vuol dire mettere un'immagine profilo su Facebook, allora diciamo che è presto fatto, presto apparecchiato alla possibilità di spazzare via qualunque rete sociale, perché se si regge sulla comunanza di un profilo Facebook, cioè di un'immagine Facebook, allora diciamo le sue radici non saranno particolarmente profonde. Mi viene da dire, forse in maniera un po' forzata, però accanto abbiamo visto proprio in questi giorni la criminalizzazione di altri tipi di solidarietà, il corteo antifascista di Cremona che altro non ha fatto che andare a dire quelli sono fascisti, a indicare diciamo che Casa Pound è un'organizzazione fascista a seguito di un tentato omicidio, non diciamo di un buffetto sulla guancia. Ecco, quella non è solidarietà, è teppismo, mentre vedere tutti i potenti della terra, cioè non tutti, però molti potenti della terra a braccetto che appunto manifestano per la libertà di espressione laddove gli fa comodo che ci sia, beh, quella invece lo è. Anche... Sì, sì, ma i casi sono tanti. Ho citato il caso del comico Dieudonné, che è stato arrestato per l'ennesima volta perché ha twittato dicendo Je suis Charlie Koulibaly, che lui lo spiega in un testo che ha mandato al ministro degli interni francese perché dice questa parola, e è stato arrestato per come sostegno al terrorismo. C'è il caso in Italia dello scrittore Eli De Luca, che sta che in corso di processo per sostegno al terrorismo perché ha espresso un'opinione. Bene ricordarlo, Karim, grazie, perché appunto proprio oggi, dicevamo in apertura di puntata, ci saranno le sentenze per il maxi processo del 3 luglio, ma anche in questi giorni comincia proprio il processo a Eli De Luca. Eli De Luca, che ha semplicemente espresso un'opinione in cui dice, insomma, bruciare un compressore non può essere considerato terrorismo, insomma, sabotaggio. Anche diciamo i più non violenti tra i non violenti dicono che sabotare i beni non è violenza. Violenza è se ammazzi una persona, umili una persona, usi violenza psicologica su una persona, e soprattutto la violenza che uccide di più nel mondo è la violenza strutturale, cioè quando togli cibo, dignità, lavoro, sanità alla gente. Questa è sì che è violenza, ma bruciare un compressore non è violenza, è un atto che può essere considerato tutto tranne che essere terrorismo, ecco. Ah, infatti riguardo un po' anche a quello che dicevi tu prima, sicuramente immagino, lo aggiungo, non credo lo dicessi con questa intenzione, però rispetto alla critica, diciamo, fatta anche da molti a il cosiddetto cordone di Parigi, c'era appunto questa ambivalenza del dire ah, ma vanno lì tanti e tante leader di paesi in cui non c'è la democrazia, però che è una messa in discussione di quella rappresentazione, di quella di quell'immagine, di quel messaggio un po' parziale e è anche insufficiente dal momento in cui non mette in discussione, i confini economici di quella che quel cordone rappresenta, ma non mette in discussione un po' lo scontro fra civiltà, perché a me, perché non puntare il dito sulla Merkel o su qualunque leader europeo vuol dire invece, mentre puntarlo magari su governanti medio orientali, non mette in discussione questa, appunto, questo gioco delle parti, perché puntare, appunto, pensare che la Merkel sia garante di democrazia è abbastanza di una cosa di un paese democratico è abbastanza fantascienza. Anzi, fantascienza. Sì, e poi in realtà era un dito che non era nemmeno puntato su dei leader, perché alla fine in questa storia non risultano. Sì, c'è questo fantomatico ISIS che adesso viene a sostituire nella sitcom della guerra al terrore, viene a sostituire Al-Qaeda, e adesso Al-Qaeda quasi quasi diventa buono, perché il gruppo Jabhat al-Nusra, che è aderente ufficialmente Al-Qaeda, ancora non è dichiarato proprio fuori legge in Siria, finché continua a fare quello per cui è stato insomma armato e finanziato per anni. E quindi il dito viene puntato verso tutta una serie di categorie povere diverse, quindi che sono gli immigrati, che sono i neri, che sono i musulmani, contro un'Europa bianca, cristiana, ben pensante, che sarebbe la promotrice della libertà, della libertà di pensiero, della libertà di credo, della libertà di espressione. E queste masse di poveri che sono relegati nei ghetti delle periferie, che non hanno diritto a niente tranne che a un assegno mensile, a un sussidio mensile per stare, mangiare e stare zitti, sono dipinti come diciamo così il nemico da sconfiggere. E questo è... Scusa, finisci. Sì, no, dico, è questo un po' il quadro che ne esce, perché nella storia di questo scenario nuovo, nemmeno più, per esempio, il regime siriano rimane così sotto accusa come lo era qualche mese fa, alla fine il regime siriano ne esce quasi pulito, perché nel gioco delle contrapposizioni buono, cattivo, bianco, nero, siccome adesso il nemico pubblico da accusare è l'ISIS, allora la Siria e il regime siriano diventa quasi un protettore delle minoranze cristiane, delle minoranze eccetera. Certo, ma infatti è molto interessante a questo proposito, e poi andiamo un po' verso la conclusione, perché un po' per lasciare qualcosa da dire domani, no, vabbè. Il discorso che facevi tu nella risposta a Hijab Ashego. Hijab Ashego è una scrittrice, pubblica su Internazionale, Il Manifesto, e che cosa diceva lei. Lei diceva: io mi dissocio da questo, da quest'atto, e la risposta appunto che poi portavi avanti tu, ma non solo, perché se ne sono viste parecchie nel web, anche in forme meno articolate, anche solo con freddure, e sul fatto che appunto perché dissociarsi in quanto, solo in quanto magari musulmani. Questa era una, appunto la, il dover provare di essere il buon immigrato che si esatto. merita di stare nella, nella gloriosa democrazia europea e che condanna assolutamente chiunque la possa mettere in pericolo, perché dice: io la tutelo, ne sono garante, e in quanto musulmano mi provo una grande vergogna per quello che è accaduto. Allora, mettere in discussione questa cosa sicuramente è stato molto importante, cioè nella, è sostanziale rispetto al discorso che credo si noi sicuramente come collettivo, ma anche dico come collettività di persone che si interrogano al riguardo e che vorrebbero appunto render ragione alla complessità di questi fatti e non darsi facili risposte. L'altra questione interessante è la completa rimozione sul fatto che questi sono di fatto cittadini francesi nati e cresciuti a Parigi. Sì, che tra, addirittura la TV italiana a certi momenti aveva smesso di dire Franco Algerini e diceva i due ragazzi algerini. Questi due ragazzi non hanno mai visto come è fatta l'Algeria, non sanno una parola di arabo o di berbero, non so di, chi, di dove sono esattamente originari in Algeria. Sono orfani di padre sconosciuto, che potrebbe benissimo essere anche francese di origini e di etnia, di tutto. Sono orfani, padre sconosciuto, madre morta giovanissima, cresciuti nei servizi sociali, nei servizi negli orfanotrofi francesi. Di algerino non hanno assolutamente niente, sono un prodotto di dei servizi sociali francesi. Sono un prodotto delle, sì, sono un prodotto dei ghetti per i poveri della Repubblica Francese, sono un prodotto di questa ghettizzazione di chi ha un colore un po' marroncino, di chi è un po' i capelli un po' ricci, e che quindi, anche se non ha niente a che fare, non ha ricevuto nessuna educazione, nessuna tradizione, nessuna trasmissione dalla sua famiglia, viene relegato in un ghetto e quindi assorbe da quel ghetto lì quello, quello che sono l'accento tipico delle banlieue, anzi la lingua, io la chiamo la lingua delle banlieue perché è tutta una lingua che, non è, che francese non è, è una lingua nuova che si è sviluppata e assorbe tutto il malessere, tutte le contraddizioni che hanno nella testa questi, questi ragazzi che crescono in questi, questi luoghi anonimi, senza, senza valori, senza niente. Questo è un po' la, la cosa che la Francia rifiuta di assumersi, e ogni volta che questi ragazzi si ribellano in un modo o l'altro, allora vengono rimandati alle loro lontane origini, ormai alcuni sono alla quinta generazione in Francia, ma se rimangono sempre immigrati, figli di immigrati, seconde generazioni, eccetera. Questo è molto paradossale, questo fatto che si è messo molto l'accento sull'origine di questi ragazzini. Addirittura il governo algerino ha dovuto mandare un comunicato ufficiale in cui dice questi, addirittura perché alcuni esponenti del, del fronte nazionale dicevano che bisogna ritirargli la, la cittadinanza francese, ma per dargli quale, dice il governo algerino, noi nei nostri registri non, non risultano nessuno, nessuno che ha di questa, che sia registrato in Algeria come cittadino algerino, insomma di questi due qua, perché non hanno mai avuto la cittadinanza algerina, sono nati in Francia con documenti francesi registrati nei, nell'anagrafe francese e basta, non hanno, c'è niente da, da discutere su questo fatto. Bene cari, io lascerei un po' aperta la discussione proprio per stimolare i pensieri e la partecipazione domani a Palazzo Nuovo, perché appunto sarebbe assurdo pretendere di esaurire l'argomento. Primo, secondo, abbiamo messo abbastanza carne al fuoco, direi, per poter dare appunto degli spunti che poi creino domani vis-à-vis un dibattito molto ricco. Ti ringraziamo tantissimo sia per la diretta di oggi che già per la discussione di domani, per il tempo che dedicherai un po' a questo confronto. Invitiamo tutti e tutte a partecipare e a portare appunto la propria riflessione o anche il proprio parere discorde. Sicuramente appunto le contraddizioni sono tante, la complessità è alta e la posta in gioco è quella di cercare di non banalizzare qualcosa, cosa che invece richiede tutta la nostra attenzione e lucidità. Grazie a voi, cari. E a presto. A domani allora. A domani. 12.06 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Abbiamo fatto una diretta molto densa e quindi vi lasciamo tirare un po' il fiato con del buon hip hop. Questo è il castello del drago potente. Entra e vieni con me. I so con lui, che quando passa la gente dice voglio arrivare su. Stare fuori dal tempo tu lo sai, stare in un confine borderline. A volte chiuso come il cielo in una stanza compresso. Sta crescendo la diavolanza, se sei pudine stati, se sei martello batti. Tieni rizzuppati nella nuca, caramelli da uno conosciuto nella tua coccia fanno buca. Guarda le cose, a destra cerca la dote, pena frega di gente, questioni di pose. Resta siante come una palletta, caffa al 20 mg, scusate vado di fretta. Suona rima, naturale triptamina, lucido nel mio spallo, calamiti, ascolta. Tutto come fosse la prima volta, con le mani all'insù, perché non c'è menù. Dimmi adesso chi fu, se mi sporchi il cielo dipinto di blu. Sostanza naturale, zero mente artificiale, porto acqua nel giardino, fumo erbe, bevo vino. Inquisitori, inquinatori di sostanze senza scrupoli per la gente, allungano la vita per farti ancora comprare. Ne propongono uno stile per non farti più soffrire. Eccitanti, narranti, nel mostro catodico, costa nostra, senso armonico, segnale storico. Leggi attentamente la pervenza. Questo è il castello. La pal 20 mg, osserva e pensa. Il drago potente. Fughe per la strada che ora salti. Entra e vieni con me. Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti. Concentrati, comprimiti. Introduzione arteriosa, pensieri senza limiti. Non ci fare caso, parole che sfuggono dal controllo labiale. Vengono fuori da dentro, per caso, non dal razionale. Come soldatini in fuga dalla guerra mondiale. Come cellule impazzite di una massa tumorale. La vita, chi te ne frega, chi la disprezza. Chi per sempre ogni minuto, ogni secondo non la spreca più. Questioni di ritmi, bioritmi, scanditi in controtempo. Comunicando con costellazioni abissali, microscopiche. Creazioni, prendo la mira. Per guardare i miei universi intercostali. Un dito, due dita, tre dita, poi una mano prendila o sfiorala. Oppure come un'assassina mocciocaci e amala. Entra e vieni con me, ti renderò felice. Leggi attentamente l'avvertenza. Questo è il castello. Cappa al 20 mg, osserva e pensa. Il drago potente. Fughe per la strada che ora salti. Entra e vieni con me. Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti. Back on my feet, carboni su una landa desolata dentro un beat. Altro che 40 giorni come un vecchio amico. Anni che cammino nel deserto e non mi affondi, sono ancora vivo. E salutiamo anche chi ci ascolta dalla città. In fondo metto l'anima in un test, se il foglio è la sua cute, l'inchiostro è solo lividi, lividi, lividi. Ho fare brividi se mi stupisco. Questo il mondo non lo cambia con un giorno grigio. Non c'ho alibi, ho le alibi. Battiti, ti batteranno i battiti. Il cuore non l'hai ancora visto. Il mio sonno è il fuso d'aria ormai. Dormo quando apre il sipario del tuo mondo. Non c'entri in questa farsa da teatro. Ti senti mai negare dentro l'aria e non nel mare più profondo. Ruoterò nel nulla di sto mare. N'attraverserò col freddo addosso e gli squali dietro. Forte di bracciate che non sapevo di fare. Solo per toccare terra, ruotare in cielo. Chiamami Benuale Com, Benuale Com. Chiamami Benuale Com, Benuale Com. Chiamami Benuale Com, Benuale Com. Solo per toccare terra, nuotare in cielo. Back in my sea. Dio non c'è passato mai di qui. Solo chiese di colletti bianchi. Parlano di cose che non sanno. Chiedono di stare calmi. Non sono mai stati stanchi. White meat. Ancora guarda avanti. Dopo coltellate sulla schiena e i fianchi. Mi chiedono di farli ballare come tanti. Ma è come chiedere a un pittore di lasciare i propri quadri bianchi. Non è che non lo posso fare. È che non saprei scrivere senza parlare. È che per quanto provi a ridere continuo a sanguinare. Devo insistere. Scusa la sinceramente. Italia, niente di personale, ma qua mettete tutti come fosse un dovere. Non sentite le parole, ma il potere. Adesso lasciami nuotare, stammi bene attraverso il mare, finché l'universo non si vede. Ruoterò nel nulla di sto mare, l'attraverserò col freddo addosso e gli squali dietro. Forte di bracciate che non sapevo di fare, solo per toccare terra, nuotare in cielo. Chiamami Benuale Com, Benuale Com. Chiamami Benuale Com, Benuale Com. Chiamami Benuale Com, Benuale Com. Solo per toccare terra, nuotare in cielo. Chiamami Benuale Com. Nuotare in cielo. Allora, mezzogiorno e 12, proseguiamo con Parole Ribelli. Lo facciamo sfumando sulle note del nuovo album di Mezzosangue, che vi anticipiamo prossimamente sarà ospite alla Scatasuna proprio per presentare il suo ultimo lavoro, che tra l'altro potete trovare in free download, insomma, per gli appassionati del genere. Allora, dopo la lunga diretta con Karim Metref, rinviamo insomma all'appuntamento di domani pomeriggio a Palazzo Nuovo, in cui ci sarà modo di approfondire anche con più tempo e più spazio la questione dell'attentato alla sede parigina di Charlie Hebdo e tutte le implicazioni che questo ha avuto. Quindi appuntamento alle 17 a Palazzo Nuovo. Le indicazioni sull'aula le daremo domani, insomma, per chi si recherà sul posto troverà le indicazioni del caso. E allora adesso dalla Francia ci spostiamo invece in Messico, continuiamo a parlare della vicenda dei 43 studenti normalistas di Ayotzinapa che risultano scomparsi ormai da 4 mesi, esattamente dalla notte del 26 settembre, quando è andato, insomma, si è verificato quello che ormai è noto come il massacro di Iguala, con la durissima repressione appunto di una manifestazione studentesca e la conseguente scomparsa appunto di questi 43 studenti. In questi 4 mesi appunto la mobilitazione è andata avanti in maniera continuativa, allargandosi appunto a tutto il Messico. Nelle settimane scorse c'erano state nuove proteste dei familiari degli studenti che avevano letteralmente dato l'assalto alla caserma locale di Iguala, che a quanto pare è stata, insomma, in base anche alle tracce lasciate dai telefonini degli studenti, è l'ultimo luogo in cui sono stati appunto rintracciati prima della loro scomparsa. Quindi insomma, le responsabilità dell'esercito, delle forze dell'ordine sono conclamate ovviamente in una fitta rete di intreccio con il governo e le narcomafie, insomma tutto quel meccanismo che abbiamo più volte evidenziato da questi microfoni. Nella giornata di ieri, appunto 26 gennaio, ricorrevano appunto 4 mesi esatti dalla scomparsa ed era stata indetta una giornata di mobilitazione globale per Ayotzinapa. Si tratta dell'8ª giornata di questo tipo, ce ne sono state appunto altre 7 nei mesi scorsi e ci sono state appunto azioni, manifestazioni e presidi in oltre 40 città, ovviamente per lo più localizzate nel Messico ma anche in altre città del mondo. Ci giungono notizie di manifestazioni sicuramente a Barcellona, in Euskal Herria, in diverse città degli Stati Uniti, in Norvegia, insomma questa solidarietà ha toccato un po' tutto il mondo. L'appuntamento di maggiore rilevanza ovviamente è stato quello di Città del Messico, dove Il corteo, ci sono stati 4 cortei diversi che sono partiti appunto dalle maggiori università cittadine, e da questi 4 punti della città sono confluiti nello Zocalo, che è questa piazza principale che è già stata teatro di diverse proteste in questi mesi. Nel frattempo, per quanto riguarda appunto la sorte dei 43 studenti, continuano a non esserci certezze di alcun tipo. In queste settimane il governo messicano ha cercato più volte di avvalorare il ritrovamento di alcuni resti di questi ragazzi nelle tante fosse comuni che purtroppo si contano in Guerrero, che è appunto lo stato messicano in cui è avvenuta la loro scomparsa, e che stanno continuando a venire alla luce. Appunto, le prime versioni del governo per tentare un po' di placare la situazione erano quelle di additare la responsabilità dell'accaduto al crimine organizzato. Vale la pena ricordare che la cosiddetta guerra al narcotraffico, che è stata iniziata con il governo messicano nel 2006 e che sta proseguendo adesso sotto le direttive del presidente Peña Nieto, conta all'oggi almeno 30.000 desaparecidos, oltre a una serie sterminata di morti di giornalisti scomparsi o uccisi. Quindi questo è il risultato, insomma, delle cosiddette politiche di guerra al narcotraffico che sono state messe in campo finora. E, tra l'altro, proprio ieri nello stato del Veracruz è stato ritrovato il corpo di un giornalista che era stato rapito 3 settimane fa. In un articolo del Manifesto di oggi, a firma di Andrea Cegna, che si trova in Messico, che sta seguendo appunto con continuità la vicenda di Ayotzinapa, anche con corrispondenze su Radio Onda d'Urto, si evidenzia appunto come questa della guerra al narcotraffico sia stata in realtà per i governi una grande occasione per reprimere i movimenti sociali e qualsiasi voce fuori dal coro, come appunto è accaduto con il caso di Ayotzinapa, con quella che era una protesta studentesca che è stata repressa in maniera assolutamente brutale. Le famiglie degli studenti in questi mesi hanno sempre rifiutato le fantasiose ipotesi governative del ritrovamento appunto di alcuni frammenti di corpi, che peraltro in alcuni casi sono state anche smentite da alcuni laboratori, o che comunque hanno dichiarato che non è possibile dire con certezza chi appartengano quei resti. È significativo lo slogan che è stato coniato tra gli altri durante la mobilitazione, che dice li abbiamo lasciati vivi, li vogliamo ritrovare vivi. Quindi la speranza, ma soprattutto la rabbia, continua a essere quella di riaverli indietro vivi e di non, insomma, di non gettare la spugna di fronte ai tentativi calmare la situazione che il governo sta facendo e che invece sta solo buttando benzina sul fuoco. Lo scorso 12 dicembre, appunto, all'esterno della sede del 27esimo battaglione, di fanteria di Iguala, c'erano stati dei violentissimi scontri. Dopodiché, appunto, dopo questa ulteriore indicazione di responsabilità da parte delle famiglie e di tanti altri studenti, la Procura Generale della Repubblica Messicana si è detta disponibile ad aprire appunto questa base militare per verificare la presenza degli studenti al suo interno e appunto le responsabilità dei militari che vi stanno dentro. Quindi, insomma, la situazione è sicuramente in divenire. La giornata di ieri è stata nuovamente molto partecipata, appunto ha visto risposte solidali in tutto il mondo, e quindi sicuramente importante che questa vicenda sia riuscita a travalicare i confini messicani, imponendosi all'attenzione mondiale e scoperchiando appunto anche tutto un po' quel contesto di appunto di malavita e di repressione brutale che vede la connivenza di forze dell'ordine, governo e narcomafie. Quindi niente, rimandiamo appunto l'articolo del Manifesto di oggi, lo trovate anche online, si intitola 8ª giornata globale per il ritorno dei 43, che fa un po' il punto della situazione, e anche al profilo di Solidaria 43, il collettivo con cui ci siamo già messi anche in collegamento da questi microfoni, che si sta appunto occupando di diffondere le notizie di Ayotzinapa in giro per il mondo. Questo più o meno quanto per quel che riguarda il Messico. Nel frattempo ci arriva un CISI al 346-667-3263 che ci segnala controllori della GTT alla fermata del 9 in Largo Borgaro, direzione centro. Quindi CISI Direi che adesso possiamo fare una pausa musicale, poi andiamo verso la conclusione della puntata con gli aggiornamenti da Cremona. Contrastato e chiesa, che se la guerra in testa, la controinformazione è un'arma, mezzo sangue e sguarda, manda. Questa è guerra aperta, guerra aperta, questa è guerra aperta, contro un mondo che imbavaglia, questa è guerra aperta, guerra aperta, questa è guerra aperta, in testa il campo di battaglia. Odio le banche, tutte quante le famiglie dei banchieri, odio l'Italia e i finanzieri, tutti gli esattori fieri, pieno di domande ma una strada oscura, ruba più chi svuota banche o chi ne fonda una, tipo quanto cazzo dura questa presa per il culo, lo schiavismo non è morto. Mai. Guarda se è voluto, tolto frusta e messo le tv, ma come al tempo degli antichi egizi, chi ti dà il garretto, fra sei tu, punto due, odio lo Stato, l'incana maestrato, il vostro deputato, hai nulla in petto, non l'ho mai votato, come posso perdonarmi, guarda qua com'è finita, come fa a rappresentarmi, non che fa la bella vita, questa cazzo di partita, non c'ha drammi per voi, e prenda Darwin, sopravvivono qua solo a bottoni, tu vuoi parlarmi, vuoi riempirmi di cazzate, ma poi mi tengo il cuore frate, il resto faccio il cazzo che vuoi. E questo è per i miei passanti, il tuo sangue che per voi hanno dato. Capo, sono un passato senza fiori e per tutte quelle volte che il paese mio lo ha rinnegato. Capo, sono un passato senza fiori e questo è per un Dio che il conto in banca che anche io ho pagato. Capo, sono un passato senza fiori e adesso ti spaventa il mostro in mezzo sangue che anche tu hai creato. Capo, sono un passato senza fiori e tutto testo io la chiesa, ci ho messo il sangue, mamma verità che allatta le mie barre, crescono beffarde, tu le allatti con le palle, le tue crescono cazzate, se il mondo va di merda, state là e vi lamentate, siete qua, l'alio non c'è dentro agli occhi o fa, l'ali taglio il buio, con la bocca uccido come i fatani, siamo fatali come tutti, teoria del caos, uragani, ed ogni barra che sputa un battito d'ali, non c'entra Berlusconi, merda, c'entra la tua testa, il fatto che faccia scelgo, di tanta merda c'entra quello che porti sopra il social network, nevica, bravo, non c'hai soldi, manco grande al cesto. Calmo frate, ok, metto la testa a posto, posto che la odiate, se la usate mi sposta tutto showbiz, basta un pubblico ed un curatino, la mente un papà ricco, arriva l'umile Francesco prima e boom. Credono tutti ancora, viva il Papa, viva l'umiltà della corona, vaffanculo Roma, fanculo Italia, fanculo il mondo, gli occhi per guardare nulla e poi non vedi quanto andiamo a fondo. Questo è per i miei passati, e tutto il sangue che per voi hanno dato. Capo, sono un passato senza fiori e per tutte quelle volte che il paese mio lo ha rinnegato. Capo, sono un passato senza fiori e questo è per un Dio che il conto in banca che anche io ho pagato. Capo, sono un passato senza fiori e adesso ti spaventa il mostro in mezzo sangue che anche tu hai creato. Capo, sono un passato senza fiori e stato. If you ever think about Mi jala fondo la cuantula, cruz tu bobillera, no te el monte cuidado, como un diablo la ganar, y el monte. mega flow, flendo de gang solo M stilo shoot a guru mochi de Ongo de la vida como do es veni mode Mine bon la mo I style of the cloud. Si t'attends d'être pur comme la colombienne mais l'argent prise dans l'emprisage des clins d'œil comme une belle pute. La rage du peuple aux lèvres, j'embrasse l'amour. L'état nettoie mes chocs sous béton, le ciel et toi les chocs. Second volet, voici le quartier tous répondre à la pleine panier. On fera le noir pour finir la pleine armée de maille. Secteur centre-ville, boum. Écoute la zone de parle, écoute les ruelles de ma vie. Second volet, Marseille. Les frères répondent à la pleine panier. On fera le noir pour finir la pleine. Secteur d'envie, loin de votre âme mondaine. Les nous pour les anciens, écoute les MC de mon coin. Pas une grosse canale, demande à Kenny Arcana. Les gosses banales, ma cavale est un gros canal. On fera le noir, la pleine, là où on se voit là. Révolution urbaine et quelle est honte cara. La musique est vite de l'air, mais aujourd'hui je fais ça avec plaisir. Y'a tes braves qui partent du cœur, tous minutes tu crois sourire. Ok, ils soumis, le hip-hop c'est la loi dans le pays. Le respect est tendre, des propres puissants pour tout ça qui est. Fais pas à pied, jusqu'à mort ou la prison. Tous les jours dans le bâtiment, à croire qu'on est des maçons. La cause se fait comme on dit, trop plus dans les camps, ça rappe. Trop dans les camps, appelle-moi, je prends la cachon. Ok, ne sais pas, c'est des cartes de la race. Nous réfères, les écoutez pas, ils s'égarent. On n'est pas du rire, qu'est-ce que vous foutez là. Ne viens pas d'oublier si soldi victo, que des gosses, c'est la durée. Freestyle, punchline, centre-ville, massacre. Ma street gym est attaque, la rythmique fracasse. Des soucis nous tracassent, donc ça finit en braquage. L'opéra à la plaine, le gosse est dans les parages. Je suis la pétition, réel coup de pouce. Je gagne avec peu de flou, je gagne d'un rap pouce début de l'été. Crédibilité, centre-ville, c'est ma fibre. Délinquant, musique, frère, sans courir, c'est la fibre. On vient représenter le centre avec la race qu'on a dans le centre du cœur. Yeah. 12:30 sui 105.250 siete all'ascolto dell'ultimo colpo di coda di Parole Ribelli, che poi vi lascerà al GR e a Cattivi Pensieri. Come dicevamo in apertura di puntata, andiamo a dare qualche aggiornamento su Cremona, su dove oltre a dove continua la risposta all'aggressione fascista, vile e infame come nello stile di questi sorci. Sabato abbiamo visto il corteo nazionale con migliaia e migliaia di persone. Chi c'era sa che non è esistita nessuna testa di Black Bloc che ha preso ostaggio il corteo, impedendo ai civili di manifestare il proprio antifascismo, bensì, ma come vuole, diciamo, la favoletta della retorica del Black Bloc, ma un corteo di migliaia e migliaia di persone determinato, che ha messo in campo una delle tante facce dell'essere un corpo sociale unito da una solidarietà forte e attiva. Questa è l'unica e sola faccia che vale la pena mostrare di fronte al fascismo. Questo è l'unico e solo modo per rapportarsi a quelle merde. Lo ribadivano i 99 post sulla loro bacheca Facebook, dicendo, pubblicando una foto del cordone della manifestazione, il primo tra dei vari, onore a chi lotta, più bastoni, meno tastiere, e ripresi dal Corriere della Sera, che diciamo li accusa di inneggiare alla violenza. Quindi prendiamo subito l'articolo del Corriere di Milano, che accusa i 99 post di istigare la violenza, i giovani antifascisti, e quindi evidentemente a quanto pare di viziarne un po' le belle anime. Perché viene ripresa e viene data rilevanza a quello che è il commento su una bacheca Facebook, tra le molte altre, non solo per il carattere, diciamo, di pubblico di quella che è la presa di parola di un gruppo, ma anche e soprattutto perché i 99 post devono andare a suonare a Cremona con un concerto benefit per le spese mediche di Emilio. Allora, non solo si contorna il corteo della solita retorica, ma anche si tenta di metter bocca da parte delle istituzioni, che sono le stesse che non hanno mai condannato effettivamente gli atti fascisti, perché sono le stesse che hanno permesso l'apertura di Casa Pound, ricordiamocelo sempre, che non ne hanno mai chiusa una e che anzi a Roma gli hanno regalato 8 piani di palazzo. Quindi, appunto, un concerto fatto dentro a un centro sociale su cui, appunto, a quanto pare tale sindaco Galimberti vorrebbe addirittura metter bocca, nel senso che in seguito alle dichiarazioni del 99 posse, il sindaco della città ha detto di non essere più disposto a ospitarli nella loro performance a sostegno delle spese mediche di Emilio. Allora sì, vi mandiamo appunto questa breve intervista che è stata realizzata ieri su Radio Onda d'Urto, in cui appunto Zulu cerca un attimo di riportare il dibattito su insomma dei binari sensati. Era carino il commento dei 99, per chi appunto come molti e molte ne conosce la produzione musicale, che diceva, ripubblicavano sulla propria bacheca Raffaniello dicendo: nel 92 ancora non conoscevamo i Raffanielli da tastiera. Facciamo una gran risata, ce la faremmo ancora più grande se non fossimo ancora fortemente turbati da quello che è successo a Cremona. Ci sembra, come dire, proprio lo specchio del nostro paese, il fatto che in un paese in cui un compagno viene aggredito mentre sta dentro il suo posto da 50 persone che si sono preparate e organizzate per fare questa cosa, nessuno, non esce un articolo serio che racconti questa cosa così come è andata, e tutto parte da una grossissima campagna di disinformazione della stampa e dei network dell'informazione, che al 98% parlano di beghe tra tifoserie o comunque di scontri tra opposte fazioni. Poi la beffa continua con la polizia, che è arrivata sul posto, carica i compagni e permette ai pochi tassisti che erano stati in qualche maniera intrappolati di scappare via anche loro insieme ai loro amicetti. Continua ancora la beffa con la magistratura, che dopo pochissimi giorni apre un procedimento giudiziario nei confronti di 8 persone, di cui 4 sono compagni e altri 4 sono di casa grande, proprio per avvalorare tutto questo, questa buffonata della rissa da stadio, dello scontro tra opposte fazioni. Poi c'è un corteo al quale noi aderiamo idealmente dal primo momento, lo scriviamo sulla nostra pagina Facebook e il giorno del corteo pubblichiamo una foto del cordone di autodifesa di questo corteo con una scritta molto semplice: Cremona antifascista. Questo post genera un putiferio sulla nostra pagina, un attacco vero e proprio da parte di tutti quelli che non credono nell'autodifesa di Gorkei, che in parte probabilmente saranno anche persone che ai Gorkei ci hanno pure partecipato qualche volta, ma nella gran parte sicuramente no. Sono così questi professionisti di tastiera, un virus vero e proprio che esiste nel mondo dei social, col quale noi della 99 siamo costretti a combattere quotidianamente ogni volta che mettiamo un post che non sia universalmente condivisibile. Ecco, ogni volta che noi scriviamo la pace è bella, l'amore è un sentimento profondo, ma scriviamo qualcosa di più complesso, arrivano queste orde di imbecilli a rompere le palle dai comodi divani di casa loro e dai computeroni che la mamma e il papà gli hanno comprato. Dopo più di 5 ore di battaglia con questi personaggi che continuavano ad arrivare, perché poi ovviamente non è che arrivano e ti fanno una critica costruttiva, ma vengono, offendono, fanno paragoni, tutte cose che per chi il fascismo e l'antifascismo li conosce veramente molto bene, per chi come noi è stato magari anche aggredito più di una volta da orde di fascisti, per chi come noi affissa nella testa l'immagine di Emilio pur non avendolo visto nelle condizioni in cui sta, perché ci si immedesima. Io neanche 2 anni fa sono rimasto vittima di un'aggressione di una ventina di questi imbecilli e non ho fatto la fine di un video esclusivamente perché nessuno di loro aveva una spranga di ferro da tirarmi sulla testa, per cui sono riuscito a rimanere in piedi e me la sono cavata solamente con 2 denti in mano e con svariate con svariati buchi in testa che prima non avevo perché adesso ho. Ecco, quindi questa è tutta la premessa. No, alla fine di tutta questa premessa, a un certo punto uno di noi si rompe i coglioni e pubblica di nuovo la foto del servizio d'ordine del corteo con sovrascritto più bastoni meno tastiere. Era evidentemente riferita alla rottura di coglioni alla quale eravamo stati sottoposti tutto il giorno. Ed ora comunque ovviamente ancora una volta un modo per dimenticare non già il fatto che bisogna scendere e risolvere tutto con i bastoni o che i bastoni sono meglio della comunicazione, dell'informazione, del libero pensiero e della circolazione di esse attraverso il confronto dialettico che si può fare con una tastiera. Era una provocazione che andava, soprattutto se si tratta di una grossa testata giornalistica che gode, come dire, della stima internazionale dei colleghi come quella del Corriere della Sera, uno si aspetta che la persona, prima di estrapolare una cosa dentro un social e farla diventare un caso nazionale, dovrebbe prima un attimo leggere la dinamica che ha portato alla pubblicazione di quella cosa piuttosto che di un'altra. In ogni caso, ripeto, questo è proprio lo specchio del nostro paese, che è veramente un gran bel paese di mezzo, perché qualora anche noi, da un così ex abrupto, fossimo usciti direttamente con il posto meno bastone e basso, basso, senza neanche la scritta delle rassegne, in un paese in cui c'è un compagno in fin di vita, una polizia che fa finta di niente, una magistratura che fa finta di niente, tutti quanti si sarebbero dovuti porre il problema di dire allora chi è che difende la popolazione civile dal fascismo, se non l'autodifesa popolare, come si fa? Ecco, questa domanda non se la può mettere, tutti quanti a dire che siamo noi che stiamo alla violenza, va bene, ci accogliamo questa cosa, noi stiamo alla violenza, che è la violenza, diciamo, che subiamo non esiste, e questa è la questione condannata sicuro, noi siamo pronti, il numero del mio avvocato ce l'hanno quasi tutte le questioni d'Italia. E allora questo era il commento di Zulu, comprensibilmente un po' avvelenato, insomma, di fronte alle polemiche di questi giorni. Perché io avrei detto amareggiato, che era un eufemismo inutile. Ovviamente ribadiamo che il concerto domani sera ci sarà, quindi per chi volesse partecipare e ovviamente quindi in questo modo anche contribuire alle spese mediche che Emilio e la sua famiglia dovranno affrontare, l'invito è sicuramente appunto quello di esserci domani sera, giovedì sera al centro sociale Dordoni. Ovviamente, insomma, sulla giornata di sabato è legittimo anche avere opinioni differenti finché appunto si tratta di critiche sensate, non di sparate a zero o addirittura di cose inventate, come abbiamo pensato di fare il Corriere della Sera, che non solo ha lanciato questi anatemi contro i 99 post dalle pagine del suo ben poco, insomma, dignitoso giornale, ma appunto pur di denigrare quella giornata è arrivato appunto a inventarsi di sana pianta delle cose, perché domenica in un articolo online sosteneva che su Twitter, appunto mentre si faceva la conta dei danni lasciati dal corteo, fosse diventato virale l'hashtag Je suis Cremona, che già non si capisce adesso perché solo Je suis lo dobbiamo infilare dappertutto, cioè, ma vabbè, questo è un discorso. Ma la cosa divertente è che andando a vedere poi effettivamente su Twitter la portata di questo hashtag, comparivano tipo due tweet che riportavano questa cosa, per il resto erano agenzie stampa che riprendevano assolutamente a buffo questa cosa senza nemmeno verificarla, e poi nel tempo è cresciuto il numero dei tweet, ma era tutta gente che prendeva per il culo il Corriere della Sera per essersi palesemente inventata questa cosa. Quindi, insomma, il livello del dibattito purtroppo è questo. Sappiamo che, insomma, il Corriere della Sera ci ha abituato abbastanza al peggio in questi anni, quindi non è che ci dobbiamo neanche stupire troppo, però insomma ci sembrava una nota di colore così che era interessante dare. Comunque, se volete partecipare a questo aspro dibattito di Je suis Cremona, per chi twitta, insomma, lanciatevi nella bolgia. E niente, sì, assolutamente, mi raccomando, tenete conto del fatto che il dibattito è complesso, perché c'era anche Che magno stasera come hashtag, quindi comunque è un po' spinosa la questione, bisogna capire un po' come inserirsi, hai visto, mai c'è chi dice proteine, carboidrati, non si sa mai. E niente, quindi su questo noi abbiamo fatto le 12.43, quindi lasciamo anche per questa settimana i microfoni di Parole ai Ribelli, dandovi appuntamento a martedì prossimo dalle 10.45 alle 12.45. L'invito appunto a rimanere sintonizzati su Radio Blackout, tra pochissimo il GR e poi Cattivi Pensieri, ma soprattutto durante il pomeriggio i microfoni della radio saranno aperti per dare aggiornamenti rispetto alla sentenza del maxi processo Notav, che ricordo è attesa per le 14.30. Da questa mattina c'è già un presidio all'esterno dell'aula bunker, quindi per chi volesse partecipare, per ora l'invito appunto a recarsi di fronte all'aula bunker, dopodiché invece alle 18 a sentenza, insomma, ormai avvenuta, quando si capirà un po' la situazione, l'appuntamento invece a Bussoleno davanti al negozio del barbiere, insomma, in segno di solidarietà, visto che era tra gli arrestati di quel gennaio del 2012, insomma, lì si vedrà un po' che fare per dare una prima risposta alla sentenza. Dopodiché domani ci sarà poi l'assemblea popolare sempre a Bussoleno, in cui si andrà a snocciolare, insomma, meglio le iniziative dei prossimi giorni. Quindi appunto l'invito a partecipare, per chi non può esserci fisicamente, seguite le frequenze di Radio Blackout. E allora vi saluto anche io da, appunto, dalle libere frequenze. Ci vediamo martedì prossimo. Vi lasciamo un ultimo pezzo. Buon ascolto.